avanti. E Beato. E Beatone, buonasera. Buonasera anche a te, bella scucito. Cappabbè l'antenna sistemata. Allora, fermato se la cosa ha partito col vento così. C'ho uno e due di stazionare, ma c'ho, sto trattando con 5 watt. Si è mollato il bulloncino del, come si chiama, della bobina, e quindi come siamo per lo filo, a volte forse, a volte no. Uno, quasi due di stazionale ciò, per essere esatti. Due e mezzo. Che cazzo? Lo so, ci sa questo adesso. Aspetto che calma il casino che c'è e mi tocca smontare la bobina. Ma falla bene, Antone, questa volta. Infatti, già, a farla già la faccio bene, non è quello il problema. Capito? Cazzo. Perché se no, cioè, sono appunto a capo. Di ricezione come sei? Ma la ricezione già ce l'ho buona. Ce l'ho 7 di QRM, 5-7. E allora si è mollato qualcosa che è regolamentazionaria. Infatti è quello. L'altra volta sto partendo, l'ho mossa e è scesa 1-1. Poi come ha fatto vento si è un po'. Fatto un nuovo gioco, ce ne siamo andati appena appena il corso. E quindi va a ragionare da un'altra parte, per quello che c'è la stazionaria alta. Esatto, sì. Non è accordatore? Sì, ma non ci scendo adesso la Giovanna a prendere l'altro aspetto con l'accordatore, non è che. Tanto sto scendo solo con 10 watt, non è che sia. Siamo già usato il 3009, non ne ho problemi, c'ho il 3009 qua. E vabbè, un sistema appena che. E l'altra verticale che fine ha fatto, Antonio? L'altra c'è la Giovanna giù. Potevi salircela. Io lo sai che ogni volta attacca e stacca. Anzi, stavo guardando che mi sa che c'è la B27L. Cioè, non la B27L, c'è una antenna, c'è. Su IBI, che cosa, una fesseria, ci sono c'è la tubo 2001 che costa 20 euro, figurati, ce la mandano in 3 giorni, ce la mandano, quindi adesso mi devo fare la spazzolata da IBI e ho dirami l'antenna direttamente da lì. Sai cosa deriva la tubo 2001? Cioè, no, cioè, un'antenna da tetto ti devo mettere. Non mi è capito, non è che devo comprare la tubo 2001, no, ce l'ho quella, ce l'ho già, magnetica, l'ho prestata Antonio, un amico mio, capito, ho usato l'antenna per poter uscire, ma in quel posto che dove abita non esce nulla. Ci vuole l'antenna sul tetto? No, mi prendo un'antenna nuova, questo non so, a diventare scemo con questa mantova. La mantova la ributto giù e va a far culo. Capito? Me la tengo di riserva, la sistemo bene, gli faccio qualche. Gli faccio la modifica dove c'è agganciata la bobina, perché il bullone passa dall'interno, capito? Dall'interno verso l'esterno, siccome la vettura è tonda, quindi quando vai a stringere, capito? Ci vorrebbe una chiave di quelle lunghe, in modo che ce la diventa dentro la vetrovesina e tiene il bullone, e poi dalla parte opposta deve stringere forte, capito? E ci rimette in pratica il bullone con una come si dice? Un occhiello dentato, in modo che blocchi con la vetrovesina, poi dall'altra parte è la stessa identica cosa. E poi il piatto, il cavetto non si muove più, una volta stretta non si muove più. Beh, capo Antone. Sì, allora a questo punto. Pigliate una uguale alla mia che già va bene, la vulcanizzi bene. Ce la tiri su e non, vai, non c'è mai problemi. Ce la farò. Ma boh, adesso vediamo. Vediamo quanto viene. Adesso invece ci sono gli sconti, adesso vediamo un po'. Arrivo a casa e non devo pagare manco il costo. Mi arriva l'antenna e non pago niente. Di spedizione. Ma appunto, buscatene una come questa qua che già va bene, cosa che tanto per Sassari va. Cioè, e si va in di purpura ya. Ah, già me l'ho fatto di ex, non è quello il problema. La voglia. Già l'ho fatto di ex. Oh, però se c'è anche PL, niente di strano, adesso lo vedo quando arrivo sopra che provo a smontare il coso, la base tra i radiali. E vediamo qual è il problema. Anzi, quando salgo su provo a tirare appena appena il cavetto dove c'è la bobina, se vedo che mi rimane in mano vuol dire che è quello, vuol dire che si è disaldato, niente di strano. Ma appunto Antone, però questa che ho io è anche leggera, sul tetto lavori bene, cavolo. Pesanti. La mantova pesa 3 kg pesa. Immaginati tu quando sei su devi essere in punta alla scala, devi rimanere un po' più alto della bobina e tiri su e poi la butti giù. Naturalmente devo abbassare i tiranti. Perché ascendere è un casino, con i radiali hai capito. Ce ne sono 8, è un casino per quello. Perché non lo so, è un casino. Adesso quando salgo sopra il tetto e vedo un po' cosa ti abboccia. E poi se è una fesseria che si è appena svitata, l'avvito bene, l'avvito, gli metto la colla, gli metto la... Una volta che è vittata bene, prendo di metto appena appena smalto per unghie, il bullone e non si muove più. Lo so già. Ah, questa ha lavorato bene, ha lavorato quando. Quando l'ha salita su. Leggera. E non ti deve ammazzare. Te l'ho detto, ce l'ho quell'antenna, ce l'ho Giovanna. Se la voglio rimettere su non ho problemi, capito? Adesso vediamo un po'. Sempre sempre l'antenna di riserva, capito? Capa. Con quella lì la potevo ripiazzare. Già va bene. Se no. Come si dice? Eppure arrivava in forma, la mia è 5 ottavi, è un pochettino più superiore a quella. Guarda che questa è una 5 ottavi, non è che siamo un 4 donna come antenna. Ma la vedete tutto, ciao. Ciao. La tuba è molto più pesante perché c'è altro variare. La mantova 5 è una cazzata a smontarla. La 5 la 1, fai altro che staccare i radiali, ne stacchi tutto, poi anche a ripararla viene bene, nel caso si dovesse tagliare il cavetto, hai capito? Viene bene anche a ripararla, ho riparato due di quelle lì, di quelle antenne. Fammi a Luca me. Avanti Luca. Luca, non entri. Hai detto la vedi di tutto. Sì. E ce lo buttiamo poi. Ci appassano a perdere, se la cazzo comunque cosa la mando qua. 200 euro questa cosa. E poi non la trovi più me. Se vai a venderla questa qui la paghi, se la pagano in oro, se la pagano. Guarda, per 200 euro mi compro la graziole. Cazzo, che 100 volte è meglio di quella lì. Ed è tutta quanta un'altra meccanica, tutto un altro mondo. Io la turbo non la metterei mai sul tetto, mi amari che li venga, perché hanno avuto molti problemi. Sì, ragazzi, c'è una buona antenna, non è tutto, no? Sì. C'è bene, c'è bene. No, metto in dubbio, Antone. Però, cavolo. Ma non so se la stanno vendendo ancora, per spendere e spendere compro un'antenna seria. Ah beh, quello sì, non c'è tutti. Scappa. Cavolo, ma la fanno ancora, non penso. Che cosa, la Mantova? La Turbo. La Mantova Turbo non la fanno più, non c'è né Mantova Turbo, né Mantova 5, né Mantova 1, non ce ne sono più in giro. L'altra volta c'era un tipo che stava vendendo 80 euro, ma non era una Mantova, era un incrocio, capito? Se l'ha autocostruito il basamento, si è autocostruito e poi aveva buscato i radiali e capito. Stava vendendo 80 euro, 80-90 euro. Ed infatti nessuno gliel'ha preso. Che faccio ora? Non c'è. Oh, per carità. A me c'era quasi 20 anni, non ti credo che ne abbia molti. L'alluminio è lucido. Ne ha anni, però no, non ne vale la pena comprarla. Ho detto, se conviene prendere più la Grazioli, quella che è in voga nel momento, se per spendere, e via, con la pompa forte. Sì, ce ne sono di antenne in giro, non si preoccupa, è pieno, basta fare un giro, magari trovi anche qualcuno che ce l'abbia in soffitta come antenna, e noi non sappiamo nemmeno, ce l'ha di buttata, capito? C'è un sacco di gente che ha 40 anni che ce li ha parecchi conservati, non sa neanche cosa c'ha, figurati. Sono andato a chiedere la scusa a vedere quanto veniva la Gran Paese, il cazzo mi ha risposto 100 euro, gli ho detto, ma tu non sei normale, gli ho detto. Comunque sia, 100 euro al prezzo suo. La Gran Paese, 100 euro credo proprio, la Gran Paese può pagare 40, non di più, a parte l'alluminio che è come è costruita adesso, lascia perdere, in un momento te la trovi bigiata, o ti trovi mezzo filo. Guarda che quella che si è piegata non era un prodotto LEM, era un prodotto sirio, era, perché l'ho vista io con la scritta, chissà che cazzo gli era imbarcata, beh. Non lo so, ma l'avevo comprata, avevo pagato, perché se avevo pagato 50 euro almeno, 40-50 euro, poi piazzata e cazzo, un momento l'ha fatto in consumito di Emanuele, lui si è piegata. L'ho tenuto un po' e dopodiché siamo salito sopra il tetto, ho piazzato la mia 27 piazzata. Infatti, poi quando sono sceso, quella guasta della brasiliana, quella ragazza brasiliana si è messa in pratica, ha passato nel terrazzino, come si chiama, il prodotto, per uccidere le mattonelle, quando sono salito nella casa, sono stata alla scala, e meno male sono andato appeso, se poco a poco la scala non aveva mantenuto il croce, era finita giù per strada. Ma come? Comunque sia, quella ha campato poco, quella, no, poi chi gliel'ha malata, perché l'ha inviata a noi, e proprio era una persona, gli è durata parecchio sul tetto, poi non so cosa ne abbia fatto. Sì, magari ancora sopra il tetto si è intervistato, che ce l'abbia magari da utilizzare per ascolto, si è intervistato. Ma sul tetto non c'è più. Allora si è andata conservata, capito? La Gran Paese qua, 100 euro, ho detto così, ha detto, perché 100 euro mi avevo pagato la Mantova, la Mantova 1. Ma i prezzi sono diversi, i materiali sono più cari, cioè, c'è quello della Grand Prime, ci andiamo a vedere anche cosa. Ma se cazzo una bomba del cavolo costa 55 euro, cioè una bomba del cavolo, quella grande, 55 euro, è logico che almeno quella deve far pagare 100 euro, quella là costa quasi 200 euro a Superlemmer. Purtroppo i prezzi sono aumentati dei materiali, di tutto. Guarda, vado a buscare, come è capitato a me, una Gran Prix da sotto al tetto, che avevo, se ho detto, per fare un impianto d'antenna c'era una Gran Prix smontata, c'era. Me l'avevo portata a casa, me l'ho portata e posso rimetterci lo stilo della Gran Prix, ci ho messo lo stilo della Turbo 2001 e poi ci ho pensato i radiali della Gran Prix, tu devi vedere l'antenna quanto pompava quella lì, stazionale 1.1 fino a come arriva, immaginati tu, ma questo palzetto l'ha piazzato, l'avevo pensato nel terrazzino, nella parte dove c'è il caminetto, pompava, già pompano già, è chiesto, già va bene. Poi quell'antenna lì l'ho regalata a cosa? A Giuseppe Leoncino, la Turbo 2001, figurati, e tuttora c'è la, l'altro giorno l'ho pulita, adesso ho pensato un attimino ad Antonio, quello che c'è qua su, gli ho detto provalo un attimino a casa tua che voglio vedere se esce bene come antenna, con la magnetica, dalla macchina, gli ho dato il 3009, l'alimentatore e l'antenna, adesso domani di telefono e me la faccio riportare a casa, perché me l'ha detto lui, dice, quando vuoi, dice Antonio te la scendo, mi metto adesso, tienila momentaneamente, gli ho detto. E poi ci vediamo, non è che sono andato a per poterla provare a vedere se esce bene oppure no, questo già esce bene. Dove l'ha messa la base? E in casa l'ha messa, attaccata al frigorifero, la magnetica. La magnetica con la Turbo 2001 è attaccata al frigorifero nella tua casa, va su. Ah, dite. Arriverà così, arriverà. No, ma che non ce l'hai vicino tu? 9.40 mi arriva, quindi figurati. C'è la zona buona a Corea, me lo dico che sia una zona cattiva. Se la piazza sopra il tetto, una BA27L di lì è molto più alta di dove sono io. Quella è casa, già le viste. Lì passano 6 metri di palo, una BA27L, un 3009 e vai che ce n'è, da lì esce forte lui. Cavolo, se c'è forte, esce forte sì. Perché lui c'ha tutto aperto, c'ha di lì, capito? Perché l'altra volta l'ho visto, era, quando sono salito era tutto a bicchio in chi è. Se avessero fatto l'appartamento, cioè la palazzina da posto di essere qui, avevo messa lì dove c'è Corea, sarei stato, avrei avuto aperto anche usino. Oh, durante gli singhiozzi, Corea è dentro il palazzo però. Tutti stiamo parlando delle case alte che hanno fatto, e lì già è aperto già. Io vedo cosa ha fatto, hanno fatto queste case un po' più alte, quelle palazzine un po' più alte che ho qua, vicino al quadrato, cioè, che sono in via Carlo Felice fino ad arrivare al quadrato e sono più alte di casa mia, quindi io sono chiuso, prima era tutto campagna, avevo tutto io, avevo sorso, adesso non lo vedo più, infatti lo sento basso io sorso. È un po'... Ma ci sono quelle case, è certo che è messa lì, in quelle case nuove che hanno fatto, in alto, lì esce fortissima l'antenna. Lo so, solo che non ti fanno pensare niente con la palzina, lo sai, non ti fanno pensare mai con lo spillo fuori, in quelle palazzine lì, sono palazzine nuove, a quanto sembra qui a questo vite non ho... Non ti fa pensare proprio niente. Lì ci deve essere ciò che in pratica il costruttore ha piazzato, c'è una parabola, l'antenna TV e non ci deve essere altra. Se nei baracchini non le puoi piazzare perché non c'è posto per niente. Capito? Come detto. Non vabbè, ci sentiamo dopo che è arrivato mio figlio. E va bene, ci sentiamo dopo, ciao. Ho capito. Ciao Giammai. Allora Antone, buonasera anche Antonio. Come ci va Antone? Un bel vento, c'è un bel vento, stamattina è aumentato un bel in confronto a ieri. E un attimo Antone, riprendi un attimo. Sì Antone, si è spostato un attimo, perché sono qua l'ascolto. Antone. Da Cristina la Vena! Ciao! Ehi, ami! Allora! Dato! Ciao Giomari, buonasera! Buonasera! Sai cosa mi racconti? Mi fendi un poco di bagna, un poco di cosa, parubizzino, è per me. Che se è venuto il bambino, è venuto. A casa ce l'hai. Ah, già. Adesso ce l'hai a casa? Sì, ce l'ho a casa. E quanto ti faccio adesso? Poi, pazienza, domani, sono andato a girare il coso. Il sugo, là. E stavo dicendo, quanto ti faccio adesso? Un anno e mezzo c'è Gabriele. Allora adesso comincio a capire bene. Tra un po', già comprendi già. Cammina burro, ha fatto capisci chi lo quando. Invece come si va? Comincia a essere magnifico, va, e per cui piano piano si fa grande. Se già rubino si fa si vanno già. E tu travagli in deserto? Sì, rimane io travagliette. Ah, non c'è Gnadì? No, Gnadì no. Andata rimane e rimane. Vabbè. E poi c'è tutto a pintare, vai, bisogna andare davanti, piano piano. Piano piano ci fa e si va davanti anche. Ma che oggi c'è un po' un travaglio bisogno, è tanto facile, no? Scappa Giovanni, ma dici che ha più fatto Eva, ha fatto vero, no? Che... Ma ne dico così. Io come ti dici? Mi hanno detto perché ora a Cagliari, quindi non ha più avuto. Ieri notte ha più avuto, io non mi sono accorto, mi ha detto mia moglie. Poi era tutto bagnato, per cui stamattina sono sceso anche in campagna, ho visto che era tutto bagnato. E qualche scarica, ha passato qualche nuvola e ha bagnato un po' la polvere. Mi rane, e invece che non ha fatto nulla, non ha fatto. Certe volte magari c'è da quella parte e qua nulla, oppure viceversa, è capita così a tu. Beh, te cadu, ui, è un deferizzato, non deve fare niente. Io faccio i roghi, tutti secco, i vaccini sono biondi. Sì, già sono già venuti, ma pure in chive, già ne ha fatto. E di sono bionda, che di bionda, ma non è così, no. Ma ce l'ho fatto vedere, dai, non è fatto vedere anche le dighe, cazzo, e i terreni come basta l'acqua, cazzo, però è poca, capito. In certi paesi sono senza acqua, come te lo ogni tanto mancareva, è un macello, deve piovere per avere un bel d'acqua, io faceva un macello, quest'estate siamo male. Quando Eva non venne, ci scappa. E si andava di la ministra, va vanno a girarla. Ehi, dai, ci sentiamo, altro, dai, sono il 23, ciao. Ok, no, adesso vado a girare la pasta, perché devo mangiare anche Gabriele. Ehi.